Le notizie in 60 minuti. I maltrattamenti a Lampedusa, l'Europa avverte: il nostro sostegno all'Italia continuerà solo se in grado di garantire condizioni umane dignitose ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Roma, nell'attesa delle manifestazioni del pomeriggio, Forconi e Movimento per la Casa in piazza fra imponenti misure di sicurezza. La legge di stabilità oggi all'esame dell'Aula, nella notte licenziata in commissione. Letta: stanno germogliando i semi della ripresa, ma fare più crescita sfasciando i conti pubblici non è nostra intenzione. Calcio scommesse, oggi gli interrogatori di garanzia. Ho grandissima fiducia in Gattuso, sono certo che uscirà da questa vicenda, dice il presidente della FIGC Abete. Giornataccia dunque quella di oggi per Roma, lo dicevamo nei titoli. Nel pomeriggio le manifestazioni che si incrociano di Forconi, Movimento per il diritto alla casa, non sono solo loro. C'è dunque forte preoccupazione per quanto potrebbe accadere. Ne parleremo fra un attimo, perché prima vogliamo aprire effetto giorno con la vicenda di Lampedusa, la vicenda del maltrattamento, del trattamento, e ovviamente è un lapsus non a caso, antiscabbia, che ha fatto il giro del mondo e ha suscitato molte proteste, non ultima quella dell'Europa. In diretta con noi da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è davvero un duro monito quello che arriva dall'Europa su Lampedusa, spaventoso e inaccettabile, così la commissaria europea per gli affari interni, Cecilia Malmström, ha definito le immagini del centro di detenzione, ha annunciato che non solo ci sarà un'indagine, ma verrà aperta una procedura di infrazione per assicurarsi che gli standard europei siano rispettati. Un avvertimento pesante dunque all'indomani della diffusione, ricordiamo ancora da parte del TG2, di un servizio shock in cui si vedono alcuni migranti in fila e nudi per essere sottoposti alla disinfezione contro la scabbia. La commissaria tra l'altro minaccia anche di tagliare i fondi UE per l'Italia per l'assistenza nella gestione degli immigrati irregolari se il nostro paese non garantirà condizioni di accoglienza umane e dignitose. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, i reati ipotizzati al momento sono quello di violenza privata e maltrattamenti, ma l'amministratore delegato della cooperativa Lampedusa Accoglienza, Cono Galito, si difende: tutta una finzione, il trattamento previsto da un protocollo, spiega, stava durando da un'ora e mezza. A un certo punto alcuni immigrati si sono spazientiti, si sono spogliati, hanno inscenato il tutto. Prudente infine il ministro dell'interno Cancellieri, secondo la quale bisogna vedere tutta la procedura, cosa comporta prima di giudicare. Le immagini, dice parlando a Radio 24, fanno stare male, ma può darsi che distorcano la realtà. E per il momento è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E questa mattina una quarantina di migranti del centro di prima accoglienza di Elmas nel Cagliaritano sono fuggiti mentre venivano trasferiti in pullman, hanno mandato in tilt per qualche ora tutti i voli all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il punto di Stefano Folli. L'Italia è davvero il paese delle contraddizioni più inspiegabili. Da un lato c'è l'eccesso di lassismo, per cui a Prato abbiamo visto, per fare un esempio, crescere nel tempo una comunità cinese al di fuori di qualsiasi canone di legalità, fino alla recente tragedia, e non è il solo caso. Dall'altro lato invece ci sono le storie di odiosa vessazione, come questa di Lampedusa, storie che ci procurano i richiami dell'Unione Europea e ci espongono a figure internazionali indegne di un paese civile. Quindi il massimo del lassismo unito al massimo della meschina sopraffazione, in una miscela che lascia sconcertati, quando invece una nazione con il senso della legge e dell'ordine sociale sa essere severa ma giusta verso tutti i suoi cittadini, quelli regolari e anche quelli irregolari, quando si tratta di diritti civili. La Camera comincerà nel pomeriggio l'esame della legge di stabilità licenziata nella notte dalla Commissione Bilancio. Chiedo alla regia se ho Vincenzo Miglietta. No, ce l'avremo fra un istante. Allora introduco il mio ospite qui in studio, Salvatore Padula del Sole 24 Ore. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Allora, la legge di stabilità è stata licenziata nella notte in Commissione, poi sentiremo meglio quali sono i temi che sono passati. Però insomma, l'editoriale di questa mattina del Sole 24 Ore, del direttore Roberto Napoletano, parla chiaro, dice: l'impegno tradito di Letta, questo il titolo, non c'è il sogno che era stato chiesto al presidente Letta. Quali sono questi sogni che sono svaniti in questa giornata e in questa nottata? Ma sì, si era chiesto al governo, al presidente Letta, un atto di coraggio, un segnale forte, un segnale per le imprese, un segnale per i lavoratori, attraverso, diciamo, la costituzione di uno strumento, un fondo nel quale devono confluire i risparmi della spending review, quindi una revisione intelligente della spesa pubblica. I risparmi finirebbero in questo fondo insieme ai proventi derivanti dalla lotta all'evasione, lo scudo fiscale che probabilmente faranno con la manovra o subito dopo. Il presidente Letta si era impegnato, diciamo, a costituire questo fondo con la finalità di destinare le risorse che andavano a finire lì dentro alla riduzione, diciamo, del cuneo fiscale, quindi, diciamo, alla riduzione delle tasse per le imprese e per i lavoratori. In realtà questo fondo è stato costituito, ma insomma l'utilizzo delle risorse che andranno a finire lì dentro è, diciamo, un po' più incerto. Sono state dirottate in altri mille rivoli pur importanti, sicuramente, però insomma c'è un po' di delusione sicuramente. Ecco, poi l'altro tema, cioè, è stata una retromarcia del governo sulla Minitasi. Esiste a questo punto un rischio stangata sulla casa? Sì, diciamo che si ritorna alla situazione precedente, quindi al testo che aveva approvato di fatto il Senato, salvo alcune modifiche. La proposta che sembrava, diciamo, dover superare l'esame della commissione del giorno precedente, di ieri, era quella di introdurre un tetto in modo che la prima casa fosse colpita dalla nuova imposta Tasi in maniera, diciamo, più leggera, con un'aliquota massima dello 0,1 per mille. In realtà è stato reintrodotto il tetto massimo del 2,5 per mille, quindi saranno ancora una volta i sindaci a decidere se poi aumentare o meno il prelievo sulla prima casa, ma sappiamo che le finanze dei comuni, insomma, indurranno poveri molti sindaci, a scegliere per questa modalità. Certo. Grazie a Salvatore Padula del Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema finanziaria e ci colleghiamo con Roma con il nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Manovra economica che alle 16 inizierà il suo percorso in aula alla Camera. Obiettivo di governo e maggioranza è quello di varare la legge di stabilità a Montecitorio entro domani o venerdì, di qui il probabile ricorso alla fiducia, come ha lasciato intendere il ministro per i rapporti con il Parlamento Franceschini. Viste le tante novità del testo, e le abbiamo ascoltate, è uscito dalla Commissione Bilancio, il provvedimento dovrà poi fare un ultimo passaggio parlamentare al Senato e questo potrebbe avvenire nel fine settimana o al più tardi lunedì 23 dicembre. Tante le polemiche intanto che stanno accompagnando la legge di stabilità. Il Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno abbandonato questa notte i lavori della Commissione, in polemica in particolare su un emendamento cosiddetto salva Sorgenia. Per il Presidente del Consiglio Letta, tuttavia, la legge di stabilità resta un buon provvedimento teso alla crescita, ma ascoltiamo il Premier. L'obiettivo di avere l'anno prossimo 1% di crescita e il 2015 2% di crescita è un obiettivo alla nostra portata. I dati di questo trimestre dimostrano che è un obiettivo alla nostra portata se i tassi di interesse rimangono bassi e quindi la fiducia nel nostro Paese rimane una fiducia forte e se i nostri conti pubblici rimangono in ordine. Conti in ordine, una rinnovata prospettiva di crescita dunque, senza aver rovinato i saldi, la situazione del nostro paese secondo il Premier Enrico Letta. E da Roma è tutto. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta e noi ci trasferiamo a Bruxelles per l'Ecofin. I ministri delle finanze dell'Unione Europea sono riuniti da stamani qui a Bruxelles per cercare di approvare definitivamente il nuovo meccanismo unico di gestione delle crisi bancarie. Nella notte l'Eurogruppo ha trovato un accordo di massima sul fondo di risoluzione che sarà chiamato a ristrutturare gli istituti di credito in crisi. L'intesa prevede una graduale condivisione dei rischi tra i Paesi membri. Alcuni aspetti cruciali restano però da decidere. C'è ancora, tra le altre cose, incertezza per esempio sul reale ruolo che il Fondo Salva Stati potrà avere nella ricapitalizzazione delle banche. I governi devono anche trovare un accordo sulle modalità di voto del Consiglio di risoluzione. Le previsioni sono di un negoziato lungo che potrebbe durare fino a tarda notte. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E dicevamo nei titoli di Roma che si prepara alla manifestazione del pomeriggio, anzi alle manifestazioni del pomeriggio, dei forconi e non solo. Allora noi ci colleghiamo con Roma e con il nostro Andrea Viali. Andrea, dove ti trovi e com'è la situazione? Buongiorno, mi trovo in Piazza del Popolo dove si iniziano a sentire i primi cori, non in questo momento per la verità, e dove comunque diciamo, la piazza si comincia a riempire in vista del presidio di oggi pomeriggio, presidio qui che è stato convocato dal Movimento dei Forconi e più in particolare dal coordinamento 9 dicembre. I motivi della protesta sono quelli che abbiamo conosciuto in questi giorni, qui si chiedono le dimissioni del governo Letta, l'uscita dall'euro, il taglio delle tasse, diversi gruppi sono già arrivati e stanno già iniziando a riempire la piazza, sono arrivati da tutta Italia, gruppi anche molto diversi tra loro, dobbiamo dire, arrivati dalla Puglia, dalla Sicilia, dal Friuli, comunque dopo le divisioni interne a questo movimento non dovrebbe esserci il temuto assedio della capitale, sono attese circa 15.000 persone qui in Piazza del Popolo che fanno comunque parte di quella che viene considerata un po' l'ala dura di questa protesta, e tra l'altro hanno annunciato la loro presenza qui in piazza anche gli esponenti del movimento di estrema destra Casa Pound, gli organizzatori assicurano comunque che questa sarà una manifestazione pacifica, manifestazione che andrà avanti fino a questa sera, a vigilare ci sono comunque oltre 1.500 uomini delle forze dell'ordine che al momento dobbiamo dire qui non si vedono, sono schierate più che altro nelle strade adiacenti, ma la situazione al momento è tranquilla. Meno male, speriamo che resti così per tutta la giornata, naturalmente con il nostro Andrea Viali monitoreremo e seguiremo le manifestazioni poi nel pomeriggio qui su Radio 24. Non è un indulto, il governo difende il decreto carceri adottato ieri, a parlare così il ministro Cancellieri, ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino. Perché non c'è nessun automatismo, cioè nessuno esce dal carcere se non lo ha deciso il giudice. Poi perché tocca due particolari categorie di persone che sono i tossicodipendenti e gli stranieri, oltre ad un'altra questione che dirò dopo, che non è che vengono rimessi in circolazione, ma vengono sottoposti primi ad una cura, quindi vengono mandati nei centri di recupero per i tossicodipendenti, e secondi tornano a casa loro, cioè vengono espulsi e rimandati al paese d'origine. La cancelliera è poi tornata anche sulla famosa telefonata intercettata sul caso Ligresti dopo gli arresti. Non ho mai avuto rapporti con Giulia Ligresti, ha detto a Radio 24 il ministro Cancellieri. Ho sbagliato forse con un'imprudenza, ma dal punto di vista di illeciti stiamo parlando davvero del nulla. Arrestate all'alba a Milano 8 persone legate al clan Mancuso, dunque ancora l'andrangheta a Milano, nel giorno della presentazione del rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, questa volta a Roma. Raffaella Calandra. Sì, buongiorno, e direi che è proprio questa cronaca delle ultime ore a confermare quello che la Direzione Investigativa Antimafia denuncia nella sua ultima relazione che riguarda i primi mesi del 2013. Estorsioni e usura, si legge, continuano a rappresentare consistente voce nel bilancio attivo delle mafie, di tutte le mafie. Un allarme che sale ancora di più in relazione all'andrangheta che mira attraverso l'usura, scrivono gli investigatori, ad acquisire direttamente le imprese vessate. Così succede appunto anche in Lombardia, seconda regione italiana dopo la Campania per estorsioni, e l'ultimo esempio sono proprio questi 8 arresti di questa mattina di uomini vicini al clan calabrese dei Mancuso, accusati di essersi infiltrati con le minacce nel tessuto produttivo regionale. Se il nord è stato colonizzato dall'andrangheta, che mostra elevato dinamismo e innovazione, scrive la DIA nella sua vocazione imprenditoriale, e ora pure al Lazio, al Viterbese in particolare, che si sono dirette le cosche, molto attive nella casa madre a ridosso soprattutto delle elezioni. Di convulsa instabilità sia sotto il profilo organizzativo che gestionale parla invece l'antimafia a proposito di Cosa Nostra, il cui ultimo superboss latitante Matteo Messina Denaro potrebbe essere arrestato l'anno prossimo, dice con fiducia il direttore della DIA De Felice. Oltre alle catture, come sempre, sono i sigilli alle ricchezze la più efficace arma contro le mafie. Nel 2013 i sequestri sono stati pari ad 1,3 miliardi e hanno colpito ancora una volta soprattutto l'andrangheta. Piero. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Noi ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi torniamo insieme perché vogliamo parlare di un argomento che a noi sta molto a cuore. Un mese fa l'alluvione in Sardegna, purtroppo, ebbene a che punto siamo un mese dopo? Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. I maltrattamenti a Lampedusa, l'Europa avverte, il nostro sostegno all'Italia continuerà solo se in grado di garantire condizioni umane dignitose ai migranti. Roma, nell'attesa delle manifestazioni del pomeriggio, Forconi e Movimento per la Casa in piazza fra imponenti misure di sicurezza. La legge di stabilità, oggi all'esame dell'Aula, nella notte licenziata in commissione, Letta, stanno germogliando i semi della ripresa, ma fare più crescita sfasciando i conti pubblici non è nostra intenzione. E poi il calcio scommesse, oggi gli interrogatori di garanzia, ho grandissima fiducia in Gattuso, sono certo che uscirà da questa vicenda, dice il presidente della FIGC Abete. Mai vista, guardi, mai. Abbiamo la melma a metà gamba. E quindi siamo proprio nello strascico. È entrata dappertutto, anche una cosa incredibile, incredibile, incredibile. C'erano 50 centimetri d'acqua giù. Stavamo pranzando. Ci siamo trovati l'acqua nei piedi. Dentro è tutto bagnato, quindi stiamo cercando di asciugare e pulirla bene meglio per evitare poi. E dove? In questa casa? No, non si può vivere all'interno, no. Non abbiamo niente. Ci manca tutto, però abbiamo la forza di volontà di ricominciare e che soprattutto chiedo che non ci abbandoni nessuno. Un mese fa sulla Sardegna si abbatteva un'ondata di maltempo senza precedenti. In 24 ore, pensate, è caduta una quantità di acqua che abitualmente cade in 6 mesi. L'intera zona di Olbia finisce sotto l'acqua e sotto il fango, come avete sentito anche nelle testimonianze che vi abbiamo fatto ascoltare. Sotto l'acqua e sotto il fango finiscono soprattutto 17 persone, fra cui 4 bambini. Tutta Italia conosce nomi come Torpè, Fiume Cedrino. Sì, perché in molti casi sono stati proprio i fiumi a compiere lo scempio peggiore, ma banalmente perché si sono ripresi lo spazio che una politica edilizia dissennata aveva loro sottratto. A questo si aggiunge una catena di allarme piena di buchi. Si apre infatti nelle ore successive al disastro l'ormai classico rimpallo di responsabilità fra Protezione Civile e amministratori locali. Questi accusano: non siamo stati avvertiti del grado di pericolosità di quanto stava per accadere. Non è vero, ha risposto invece la Protezione Civile. I sindaci sono stati avvertiti e come, ma non si sono mossi come avrebbero dovuto. E poi c'è la politica, naturalmente, Letta che parla di tragedia nazionale. In Sardegna volano molti esponenti politici. Ora però, ad un mese dall'alluvione, è già silenzio. Silenzio per tutti, tranne che per noi di Radio 24, perché da quel giorno non ci siamo dimenticati di quanto accaduto in Sardegna e tutti i giorni, grazie al lavoro caparbio del nostro Simone Spezia, che salutiamo, oggi non c'è, in questo spazio ha fatto parlare i sindaci sardi e si è fatto raccontare come è andata in quelle ore, si è fatto raccontare anche che cosa è successo nei giorni successivi. E noi continuiamo dunque questa carrellata e oggi lo facciamo con il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli. Buongiorno sindaco. E buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, vi sentite, partiamo proprio da questo silenzio, vi sentite a un mese da quell'alluvione abbandonati oppure secondo voi l'attenzione è rimasta abbastanza alta? Ma guardi, i primi giorni, il primo mese, oggi ricorre il primo mese da quella sciagura. Abbiamo registrato una presenza dello Stato e una straordinaria disponibilità dell'esercito, dei vigili del fuoco, del mondo del volontariato e di questo ringrazio tutti gli italiani e le istituzioni. Purtroppo però sono costretto a constatare che la politica ha fatto dietro fronte, si è rimangiata le promesse, perché stasera mi pare che sarà votata la legge di stabilità e che mi risulti non c'è niente sulle promesse, rispetto alle promesse fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai tanti politici e ministri che sono venuti qui ad Olbia, ai quali chiedevamo per esempio una deroga sul patto di stabilità per poter utilizzare le nostre risorse. Noi abbiamo 50 milioni di euro in cassa e avremmo voluto poter utilizzare queste risorse per fare interventi concreti per mitigare il rischio idrogeologico. Assolutamente se non sì. Questo, uh-huh. Se non avviene questo, se non avverrà questo, ci saranno altri sindaci in Italia che piangeranno i loro morti, ci saranno altre polemiche, ci saranno altri scaricabarile, ma oggi il Parlamento ha tutti gli strumenti per decretare una deroga al patto di stabilità per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la messa a norma degli edifici scolastici. Se non verrà fatto questo, sarà una responsabilità politica che ricadrà enorme, che ricadrà sui nostri parlamentari e sul governo della nostra nazione. Sì, perché Giovannelli, se nei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione sono stati sospesi i versamenti, gli adempimenti tributari, insomma qualcosina è stato fatto, almeno quelli in scadenza entro il 20 dicembre, sul patto di stabilità invece, e su cui avete fatto una grossa battaglia, perché insomma davvero se non potete spendere questi soldi potrebbe accadere chissà che cosa un domani. Bene, su questo sentiamo proprio le voci raccolte in questi giorni in effetto giorno, perché è stato un po' il tormentone delle nostre interviste ai sindaci sardi. Ascoltiamole insieme. Facciamo un atto di ribellione che considero dovuto, perché noi siamo stati ligi al patto di stabilità durante tutto l'anno, noi siamo entrati in patto di stabilità quest'anno, ma di fronte a questi eventi mi sento assolutamente di aver fatto cosa dovuta. Ho esercitato non un diritto ma un dovere. Ovviamente noi ci siamo riferiti esattamente, entro un po' nel tecnico, alla legge 183 del 2011, che ci consente, salvo chiaramente un decreto del Ministro dell'Economia, di sforare il patto di stabilità. Però la scelta è stata fatta per un motivo chiaro. I sindaci che operano nel territorio hanno il dovere di intervenire prontamente quando c'è uno stato di necessità e non possono aspettare evidentemente le lungaggini che sono proprie, purtroppo, tutti conosciamo, della burocrazia in generale. Per quanto riguarda il patto di stabilità, in passato, l'anno scorso, è successo che abbiamo dovuto lottare alla grande su questa questione. Ora come ora pensiamo noi come paese di riuscire a cavarcelo ugualmente, anche perché contiamo sul fatto che lo Stato emetta delle norme che ci consentano di fare queste opere a prescindere dal patto di stabilità. Noi abbiamo la Germania che ci obbliga a non spendere i soldi. Se questo le sembra una cosa da paese civile con la schiena dritta nel 2013, me lo dica lei. A me sembra veramente una forma di schiavitù moderna. Perché dire che io non posso spendere i soldi neanche per ripristinare una strada che serve per non tenere isolate delle aziende che hanno subito dei danni, questo a me sembra un segno di inciviltà totale. Io credo che dovremmo deciderci a sforarlo e non preoccuparci delle conseguenze, perché tanto peggio di così non ci potrà ridurre. Io dico che intanto la politica dovrebbe metterci in mano, il patto di stabilità, i nostri signori politici dovrebbero, non dovrebbero aspettare i sindaci che lo sforino, dovrebbero avere la sensibilità e la velocità di modificarlo, perché quando si gestisce un'emergenza non si può procedere con procedure ordinarie. Giovannelli, ha sentito i suoi colleghi sindaci lì della zona, una forma di schiavitù moderna questa, insomma i soldi ci sono ma non si possono spendere. A questo punto che farete se nelle prossime ore non ci saranno novità? Sarà spallata da parte vostra? Ma certamente noi non rimarremo inerti rispetto a un furto, cioè, perché non consentire ai comuni di utilizzare le risorse proprie quando i rischi sono incombenti, e purtroppo lo abbiamo registrato contando i nostri morti, questo è veramente una situazione inaccettabile per noi amministratori e per tutti i cittadini. Noi abbiamo i progetti pronti, potremmo partire domani mattina con le opere, e l'assurdo sta proprio in questo, che non veniamo messi nelle condizioni di poter fare il nostro certo. lavoro. Questa è Giovannelli, la Giovannelli, frustrazione e la rabbia più grossa. Certo, come ricorda Olbia ad un mese dall'alluvione, quella tragica giornata e i morti? Ma stamattina è stata fatta una lunga camminata con tantissimi concittadini che hanno voluto ripercorrere quelle strade del fango, come purtroppo le abbiamo chiamate, sono state denominate. È un movimento spontaneo, nato su Facebook, ha portato centinaia e centinaia di persone in questa lunga marcia, che ha toccato e è andata a rendere così omaggio, un pensiero commosso a coloro che sono morti nella nostra città. Stasera ci sarà poi una messa proprio perché ricorre oggi il trigesimo delle persone scomparse. Certo. Abbiamo anche dedicato un po' di tempo per spiegare ai cittadini le cose che l'amministrazione sta facendo. L'amministrazione, ecco, che cosa state facendo? Perché è passato un mese, ma insomma è tempo di non solo curare le ferite, ma anche evitare che altre ferite magari insomma se ne creeranno poi nel prossimo futuro. Che cosa state facendo? Ma guardi, intanto dobbiamo dire, anche con una punta di orgoglio, che Olbia non ha lasciato indietro nessuno. Le persone sono state ospitate negli alberghi, adesso stanno progressivamente ritornando a casa, abbiamo solo 100 persone, meno di 100 persone ospitate negli alberghi. Poi abbiamo disposto un mensile proprio per quelle persone che hanno ricevuto la mia ordinanza di sgombero. Tutte le perizie sono state fatte e noi stiamo anticipando con i fondi comunali, proprio per evitare le lungaggini della burocrazia, e entro Natale tutti i nostri concittadini che si trovano fuori di casa e che hanno avuto l'ordinanza di sgombero riceveranno un sussidio che è stato disposto dalla Protezione Civile, insomma dagli organi nazionali. Noi abbiamo fatto già tutti i censimenti, per cui sotto questo punto di vista stiamo andando avanti con le consegne adesso. Ecco, ma il fango, le strade, i fiumi, come sono messi? Tutto è stato messo in sicurezza, la città apparentemente è una città normale, rimangono le ferite aperte perché questa alluvione ha interessato 20.000 persone, circa 9.000 nuclei familiari, certo. Sono state 3.700 immobili interessati direttamente dall'alluvione, abbiamo sgomberato 6.000 tonnellate di rifiuti. Proprio ieri in 15 giorni abbiamo ricostruito una strada, abbiamo ripristinato tutte le vie. Certo, insomma vi siete dati davvero molto da fare nel puro spirito sardo. Grazie al sindaco di Olbia Gianni Giovannelli. Prima di chiudere questa pagina sarda, una notizia che arriva da Cagliari. È stato arrestato all'alba il consigliere regionale Sisigno Piras del PDL nell'ambito dell'inchiesta della procura sul presunto uso illecito dei fondi ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Non c'entra con l'alluvione, ma insomma c'entra dal punto di vista geografico. Le borse, ora poi torniamo insieme per parlare di Olimpiadi invernali di Sochi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. I maltrattamenti a Lampedusa, l'Europa avverte, il nostro sostegno all'Italia continuerà solo se in grado di garantire condizioni umane dignitose ai migranti. Roma nell'attesa delle manifestazioni del pomeriggio, Forconi e Movimento per la Casa in piazza fra imponenti misure di sicurezza. La legge di stabilità oggi all'esame dell'Aula, nella notte licenziata in commissione, Letta, stanno germogliando i semi della ripresa, ma fare più crescita sfasciando i conti pubblici non è nostra intenzione. La Sardegna tenta di rialzarsi ad un mese dall'alluvione, i sindaci chiedono di poter sforare il patto di stabilità, altrimenti dicono potrebbe succedere il peggio. La Duma russa, proseguiamo così in effetto giorno, la Duma russa ha approvato una modifica al progetto sull'amnistia promosso da Vladimir Putin, che la estende di fatto alle Pussy Riot e anche agli attivisti di Greenpeace, fra cui l'italiano Christian D'Alessandro, accusati di teppismo, lo ricordiamo, in liberi su cauzione. Allora, Gigi Donelli, qui accanto a me, cosa nasconde questa decisione di Putin? Ma direi, Piera, che in primo luogo l'orso russo si è fatto volpe, nel senso che Putin è sempre più furbo sulla scena internazionale. Un provvedimento tempestivo e risolutivo, elimina il problema senza entrare nel merito della questione e in particolare del reato di teppismo che la procura di Mosca utilizza con una certa libertà. Quindi non dice che non è giusto condannare a 2 anni di prigione Nadia, la famosa Nadia Rea, il 17 agosto del 2012, di avere ballato in una performance in una chiesa, per carità, che la procura ha definito atto osceno motivato da odio religioso, per questo l'ha spedita prima in Mordavia e adesso in Siberia. Ne mette in discussione le motivazioni dell'arresto di Greenpeace, di Arctic Sunrise, che il 18 settembre ha simbolicamente assaltato la piattaforma. Insomma, Siamo a Natale anche in Russia, anche se il calendario ortodosso lo festeggia una settimana dopo il nostro. Putin mette in mostra il volto gentile e lo fa in vista dei giochi olimpici di Sochi, dove sappiamo che ci sono già parecchi temi caldi, come dire, parecchie castagne da togliere dal fuoco. A Sochi resta anche la questione dei diritti degli omosessuali. Non a caso Obama si fa rappresentare da Billie Jean King, la campionessa di tennis e icona del movimento gay. Assolutamente, mezzo mondo non andrà a Sochi proprio per questo. Anche la responsabile della giustizia europea Viviane Reding ha già detto: non ci andrò, quindi non ci va Obama, non ci va nessun esponente del governo. Certo, la questione ancora una volta dell'omosessualità in Russia resta esattamente dove stava. Ecco una curiosità, pensate Sergei Eisenstein, il famoso regista della corazzata Potemkin. Bene, lui era omosessuale dichiarato. La prima legge contro l'omosessualità in Russia, voluta da Stalin, il famoso malfamato articolo 121, Stalin non vuole perdere un grande regista, quindi Eisenstein si sposa e risolve così la questione. Insomma, l'ipocrisia non è una specificità locale. Oggi in Russia invece c'è un problema anche fisico per i militanti, appunto, dei diritti civili. Una battaglia che è rappresentata da Nikolai Alexeyev, classe 1977. Vale la pena dire che questo avvocato e giornalista nel 2010 è il primo che ha vinto un ricorso di fronte alla Corte di Giustizia Europea dopo che era stato messo al bando il Moscow Pride negli anni 2006, 2007 e 2008. Insomma, è una battaglia di lunga data che andrà avanti. E poi ieri, lo ricordiamo, Mosca che aveva chiuso di fatto il contenzioso con l'Ucraina battendo di fatto l'Europa nella corsa a Kiev. Sì, assolutamente. E oggi Mosca ribatte. Ieri ha promesso 15 miliardi, ma tanto per liberare il campo dai dubbi, oggi Anton Siluanov, che è il ministro delle finanze di Mosca, ha promesso 3 miliardi entro questa settimana. Insomma, la Russia fa sentire tutto il peso della sua centralità, del suo ruolo storico, e lo fa attingendo proprio a quel formidabile tesoro di fatto del petrolio che il predecessore dell'attuale ministro di finanze, il famoso Kudrin. Kudrin era famoso perché è stato considerato il miglior ministro delle finanze d'Europa nel 2010, e perché è l'uomo che ha messo in ordine i conti della Russia. Insomma, il tesoro del petrolio è davvero enorme. Kudrin azzerò il debito estero di fatto e oggi lo mette sul tavolo di prossime future conquiste. Grazie, grazie al nostro Gigi Donelli. Abbiamo sentito di Sochi, delle Olimpiadi, quanto stiano influendo anche sulla politica di Putin. E al Quirinale, per tornare vicini a noi, la cerimonia di consegna questa mattina della bandiera italiana agli atleti italiani, appunto in partenza per i giochi olimpici e paralimpici invernali, alla presenza di Napolitano. Qui accanto a me Giovanni Capuano. Sì, buongiorno Piera. Sì, le Olimpiadi di Sochi hanno fatto la comparsa oggi anche nei palazzi della politica italiana. Un incontro tradizionale, quello del Presidente della Repubblica con gli atleti che dal prossimo 7 febbraio rappresenteranno l'Italia ai giochi invernali. È stata, c'è da dire, una parentesi in giornate difficili per lo sport italiano. Gli scandali, le polemiche che stanno travolgendo il calcio in queste ore non possono rimanere fuori dalla porta, anche se si tratta di Olimpiadi invernali. Il presidente Napolitano ha consegnato il tricolore ad Armin Zögeler, che sarà il portabandiera dall'alto delle sue 5 medaglie nelle ultime 5 Olimpiadi, e il tricolore l'ha dato anche ad Andrea Chiarotti, portabandiera della spedizione paralimpica. Ecco il passaggio centrale del discorso del presidente della Repubblica rivolto agli azzurri. Voi che praticate lo sport nelle grandi occasioni olimpiche o di campionati mondiali siete guidati da un fortissimo orgoglio nazionale. Dovete far vincere l'Italia, dovete rendere onore e prestigio al nostro paese, fortissimo orgoglio nazionale e patriottismo, e nello stesso tempo non nazionalismo. Questa è la grande cosa dello sport: non nazionalismo, non contrapposizione ad altre nazioni e ai loro atleti, ma invece un fortissimo spirito di solidarietà e di lealtà. Ecco, queste le parole del presidente Napolitano in giornate, lo dicevamo Giovanni, davvero nere per lo sport italiano. Come sappiamo, lo scandalo calcio scommesse ieri ha arricchito un medagliere che davvero non andava arricchito di una nuova puntata. A Cremona oggi gli interrogatori di garanzia per gli ultimi 4 arrestati nell'indagine. Giovanni, quali le novità su questo fronte oggi? Sì, bisognerà aspettare ancora qualche ora. Interrogatori di garanzia che sono previsti per il pomeriggio di oggi. Oggi tocca a Cosimo Ricci, che è dirigente del Riccione, e a Fabio Quadri, che sono due dei quattro arrestati ieri su ordine della Procura di Cremona. Sono considerati intermediari, fonti delle informazioni per truccare le partite che sono finite nel mirino dei magistrati. Lo ricordiamo, questo è il quarto filone di un'inchiesta che è nata nel 2011. In tutto sono una novantina le partite che vengono indicate, di cui addirittura 30 della Serie A, con alcune anche dell'ultima stagione, quella che si è conclusa nel maggio scorso. L'appuntamento più importante sarà domani con Mister X e Mister Y, che ora hanno un nome e un cognome. Francesco Bazzani e Salvatore Spadaro sono le figure centrali di questa inchiesta. Continua a far discutere anche ovviamente il coinvolgimento nell'inchiesta degli ex giocatori del Milan, Rino Gattuso e Cristian Brocchi. Ieri c'è stata l'autodifesa rabbiosa di Gattuso, che ha detto: se proveranno che ho truccato delle partite mi ammazzo in strada. Oggi ha parlato il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha detto: ho grandissima fiducia in lui, sono certo che uscirà pulito da questa vicenda. Il tema oggi, Piera, è anche che cosa eventualmente rischiano i club dal punto di vista della giustizia sportiva. Detto che rimane ancora tutto da provare, tutto da chiarire, potrebbe esserci qualche conseguenza addirittura ad esempio per Milan e Lazio. Stiamo però parlando di qualche punto di penalizzazione eventualmente, magari nella prossima stagione, mentre nulla per chi è già passato da un processo sportivo, ad esempio Antonio Conte, il cui nome torna nelle carte dell'ordinanza del Tribunale di Cremona, ma Conte è già stato processato e ha già scontato una condanna. Restiamo sul calcio, sentite questo audio. Parliamoci molto chiaramente, ho 26 anni, siccome sono abbastanza intelligente, io l'ho dimostrato non nel calcio, anche nel mio lavoro, permetti che dopo 26 anni di panchina ne capisco quando è loro che magari hanno 3 anni di panchina, parliamoci chiaro, pure questo voglio dire, no? Nel caso ero proprio un imbecille, io sono stato in panchina con Bosso, sono stato in panchina con Mazzoni, sono stato in panchina con allenatori che hanno dimostrato nella loro professione, una addirittura la Coppa dei Campioni, scudetti, permetti che anche, siccome sono un ignorante, però dopo 26 anni qualcosa ne capisca pure io. Giovanni, chi è questo? Questa è la voce del leggendario Costantino Rozzi. Chi ha almeno 40 anni non può esserselo dimenticato. O chi è ascolana come me, una delle due. Ascolano. Ma Rozzi è stato un personaggio che ha segnato un'epoca del calcio italiano. Stiamo parlando degli anni 70 e 80, sono stati gli anni di gloria dell'Ascoli, che ha fatto 16 stagioni, pensa, in Serie A, e ha avuto anche allenatori importanti, li nominava Vuja Dimboskov, Carletto Mazzone. Bene, ieri l'Ascoli ha portato i libri in tribunale. Viveva questo club da 115 anni, è stato schiacciato dal peso dei debiti, 20 milioni di euro. I tifosi in realtà sperano che la mossa del fallimento possa garantire alla società un futuro migliore. Intanto i giocatori non smetteranno di scendere in campo, perché i tifosi stanno facendo una colletta per consentire il termine di questa stagione. Pensa che l'Ascoli è fallito esattamente nel giorno del 19° anniversario della morte di Costantino Rozzi. Davvero una brutta coincidenza. Grazie a Giovanni Capuano. Noi ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi proseguiremo con America 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. I maltrattamenti a Lampedusa, l'Europa avverte: il nostro sostegno all'Italia continuerà solo se in grado di garantire condizioni umane dignitose ai migranti. Roma nell'attesa delle manifestazioni del pomeriggio. Forconi e Movimento per la Casa in piazza fra imponenti misure di sicurezza. E la Sardegna che tenta di rialzarsi ad un mese dall'alluvione. I sindaci chiedono di poter sforare il patto di stabilità, altrimenti, dicono, potrebbe succedere il peggio. America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Le Rockettes a Radio City Hall, grande spettacolo natalizio sulla 41esima e la 6ª Avenue. Beh, e devo dire, il Natale a New York è sempre straordinario, la città è illuminata al massimo e dappertutto, devo dire davvero in ogni angolo si respira questo spirito natalizio. Perché vi parlo delle Rockettes di Radio City Hall? Beh, perché è un classico. New York è la città del cambiamento, ma è anche la città delle tradizioni, soprattutto a Natale. E dunque questo spettacolo, beh, va avanti da oltre mezzo secolo, è uno spettacolo di varietà. Le Rockettes sono delle ballerine, ovviamente tutte bellissime, ma è uno spettacolo misto dedicato allo spirito del Natale. Dunque ci sono altri spettacoli, non c'è soltanto quello delle Rockettes di Radio City Hall. Per esempio a Broadway c'è il musical A Christmas Story, che ci coinvolge in quello che è lo spirito della città in questo periodo, che è uno dei più straordinari. Infatti devo dire, quando qualcuno mi dice ma vengo a New York per Natale, beh, il mio consiglio è venite magari un po' prima di Natale, non proprio a Natale, perché è per un mese che c'è questa grande festa natalizia per la città. Le Rockettes, tra l'altro, Radio City Hall, dove c'è il grande albero natalizio del Rockefeller Center, un altro simbolo della città, un'altra grande tradizione. Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, un altro classico. Beh, direi che soprattutto per i ragazzini andare a vedere a cavallo di Natale Lo Schiaccianoci è un obbligo. Ce ne sono due versioni, quella di George Balanchine al David Koch Theatre al Lincoln Center e poi al BAM a Brooklyn dell'American Ballet Theatre, di nuovo un'altra versione dello Schiaccianoci. Poi vabbè, poi ci sono mille altre cose, ci sono le vetrine dei negozi, dei grandi magazzini, Saks Fifth Avenue per esempio, un classico, la gente si mette in coda per vedere gli allestimenti di queste vetrine, che sono delle vere e proprie opere d'arte al massimo livello. Ecco, ma dietro questa New York pubblica, la New York che così venendo in viaggio tutti possono vedere e a cui tutti possono partecipare, beh, c'è anche la New York privata, perché in questo periodo, devo dire soprattutto questa settimana, ci sono una gran quantità di parties natalizi, prenatalizi, parties di ogni genere, parties dell'ufficio, parties aziendale appunto, ma soprattutto ci sono una gran quantità di parties privati, che non sono soltanto il party della famiglia, ma sono parties dove varie comunità che fanno parte della città si ritrovano. E dunque voglio raccontarvene alcuni. In genere sono dalla sera, il periodo è fra le 6, 6 e mezza e le 10 di sera, e dunque molti lo fanno a tappe, no? Si va prima da uno, poi dall'altro, e si continuano a incontrare persone che magari non si vedono da anni. Il primo, per darvi un'idea delle diverse atmosfere, 72 angolo con la Quinta Strada, molti banchieri, molti avvocati. Il secondo, Park Avenue con la 64, di nuovo finanza, di nuovo quartieri alti, questa volta però con un taglio imprenditoriale, sono gestori di medio calibro, hanno la loro finanziaria, sono diciamo molto collegati fra loro, ma non hanno necessariamente quel collegamento sociale da base, insomma, che crea una certa eccitazione che a New York si trova un po' dappertutto. La terzo party, sempre su Park Avenue, una specie di casa aperta, ma la casa è di un miliardario, in questo caso un miliardario vero, un appartamento su due piani che sembra un palazzo, ci sono altri miliardari, c'è un contesto sociale, devo dire qui con un tocco di cortigianeria, però tutto è spettacolare. Il quarto, Sutton Place, vista sull'East River, indirizzo molto prestigioso, molto WASPy, e qui diciamo un po' decadente, perché qui c'è un insieme di vecchia aristocrazia finanziaria industriale newyorkese, atmosfera molto da club, ma anche di grande fascino, perché ti accorgi che forse è un mondo che piano piano andrà a scomparire, e dunque, come dire, un po' come essere in un film andando in alcuni di questi parties. Downtown, qui andiamo al Village, e questo devo dire è l'unico party che non è in una casa privata, e difatti, beh, credo qui di poter forse fare il nome di chi invita, perché poi in fondo era un posto pubblico. Taki Theodorakopoulos, un ex playboy di origine greca che vive tra Londra e New York. Era molto amico, pensate, dell'avvocato Agnelli. L'atmosfera qui è Eurotrash, come la chiamano a New York, con molti europei, molti expatriates europei che vivono a New York. Il posto è curioso, divertente, vi consiglio di andarci di nuovo. È un ristorante, si chiama il Waverly Inn, molto carino, ed è dell'attuale direttore di Vanity Fair, Graydon Carter, che, beh, insomma, con la sua posizione, devo dire, è una vera potenza nella società newyorkese del nostro tempo. Infine, di nuovo, Uptown, River House, devo dire questo è stato uno dei party più belli, per il miscuglio di nuovo di finanza, per quello dei grandi musei cittadini, dal Met al Guggenheim, per il mondo dei media, e devo dire un giusto mix. Dalle altre parti era un po' più a compartimenti stagni e con incontri, devo dire, questo succede in tutti i parties, con persone che magari non vedi da un anno o da due, ed è lì, in questo party, che incontro Dana Perino. Chi è Dana Perino? Beh, intanto è un'italo-americana, ma soprattutto era stata la portavoce di George W. Bush, e oggi lavora una rete televisiva, la Fox. Però ci siamo incontrati, abbiamo lavorato, abbiamo viaggiato insieme nelle grandi missioni presidenziali internazionali. Un mare di ricordi, di storie di amici comuni che si sono persi in rivoli e strade che poi li hanno portati lontani da noi. Resta il ricordo, l'emozione del ritrovo di qualcuno che conosci e che ti è stato vicino, e devo dire anche questo è il Natale a New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Ed eccoci alla canzone del giorno. Atmosfera natalizia, fra 7 giorni è Natale, dunque James Taylor, The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe. Well, they help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. E un saluto anche da Maria Piera Ceci per questo effetto giorno. Ci ritroviamo fra pochissimo per le principali notizie di oggi.